Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 26 agosto, buongiorno a tutti e a tutti da Antonella Cortese, in particolare alle persone detenute delle case circondariali dell'Emilia Romagna e del carcere della Dozza. E bentrovati su Liberi Dentro Eduradio TV, la trasmissione che va in onda su Radio Città Fugico, Teletricolore e Lepida TV. Il programma che ormai lo sapete tutti fa da ponte tra carcere e la città. Buongiorno Ignazio De Francesco, buongiorno, buongiorno e bentrovato. Buongiorno, benvenute a tutte e a tutti sulle onde delle nostre emittenti. E restiamo in ambito sportivo oggi Ignazio, di che cosa parliamo? Dunque, abbiamo fatto pubblicità allo sport come grande mezzo anche di promozione sociale, anche di ritorno alla legalità. E tuttavia anche lo sport può essere il luogo della tua rovina. Essere una grande stella sportiva non ti mette al sicuro dai rovesci della vita. E c'è un vecchio detto monastico che dice che lì dove la tua forza, la tua qualità, il tuo pregio, c'è anche il tuo limite, il tuo rischio. Se una persona forte, rischi di essere violento. È un po' il caso di Mike Tyson, famosissimo, a cui dedica il Fatto Quotidiano un articolo per raccontare che nel suo podcast, che si chiama Hot Boxing, l'ex campione del mondo ha raccontato dei giorni in cui era all'apice della fame e dei guadagni. Ed è una specie di racconto dell'orrore. Dice lui di sé, quest'uomo, da giovane ero un animale pieno di soldi. Soprattutto, lui dice, una inclinazione sessuale assolutamente debordante, con chiunque, dovunque, qualcosa in cui lui stesso si sentiva poi umiliato. Pensate, lui aveva accesso a tutti i club privé di Las Vegas, c'era sempre una prostituta al suo servizio. Un uomo così forte, così ricco, ha bisogno di comprare l'amore. Perché non, alla fine finisce così, che l'amore lo vai a comprare quando ti metti su quella china. E poi lui dice, non voglio che quella persona che ero prima esca di nuovo, ha detto. Dice, perché io sembro un tipo duro, ma odio quel ragazzo che ero. E quell'uomo lì, quel grande campione, il più giovane, che è stato il più giovane vincitore del titolo dei pesi massimi di boxe, è finito in galera per un'accusa di stupro, 10 anni, poi alla fine ridotta a 3 anni. Ma ancora dei combattimenti, il famoso combattimento del 97, dove è andato a strappare con un morso l'orecchio al suo povero avversario Evander Holyfield, e poi ancora un ritorno in cella, e poi un ritorno in libertà. E pensate, lui finisce così, questo è il suo podcast sul suo sito Hot Boxing, dice, più volte ha dichiarato di voler morire, e dice così Tyson, non lo temo, vivere potrebbe essere più complicato che morire per me, perché vivere richiede molto coraggio. Ignazio, forse il segreto è iniziare dal punto in cui siamo, dal punto in cui si è, perché non si è mai scesi troppo in basso per non potersi rialzare, no? Sì, e questo vuole essere anche un po' il messaggio. Io so che è molto vicina, molto davanti a noi tutti, ma in particolare chi sta in carcere, e la prospettiva, la tentazione di farsi del male, fino a uccidersi, a suicidarsi, perché, come dice Tyson, ci vuole più coraggio a vivere, certe volte che a morire. Però bisogna guardare avanti quello che la vita può ridarci e ripartire sempre dal punto in cui si è. Allora vorrei chiudere per presentarvi un altro campione, certo non è Tyson, non è conosciuto, ma è un esempio, si tratta di Roberto Tavola, che ex centrocampista della Juventus, a 18 anni ha esordito in B, poi è passato alla Juventus, ha conquistato 2 scudetti, una Coppa delle Coppe, poi la discesa, va in C, poi esce dal calcio, i soldi che ha li investe in cose che vanno a male, i negozi che ha aperto falliscono, tutta la vita sembra che gli volga le spalle. Allora potrebbe dire: ci vuole più coraggio a vivere che morire? No, invece lui, che oggi ha sui 60 anni, si sveglia ogni mattina alle 5 per consegnare i giornali. Si è reinventato in un lavoro, uno potrebbe dire: ma che umiliazione! Invece le interviste che abbiamo trovato online a questo ex campione dello sport dice che si può trovare la serenità e la voglia di vivere da quel poco che uno riesce a realizzare onestamente ogni giorno. E noi abbiamo molto rispetto per queste persone che si reinventano, perché il lavoro veramente è una cosa sacra e il coraggio non gli manca a questo sportivo. Però rimaniamo nell'ambito del calcio, Ignazio, con la musica, che dici? Sì, per far ascoltare a tutti, questi sembra che si risalga molto indietro nel tempo, ma quelle persone che non hanno mai ascoltato, di Adriano Celentano, eravamo in 100.000, ovviamente allo stadio di San Siro. Allora, ascoltiamo, eravamo 100.000. Stadio quel dì, io del lì, lei del mi, oh bella mora, da una porta all'altra le sorrisi e lei disse sì, e poi finita la partita. La vidi uscire di sfuggita con uno sul tra. Adesso lei mi deve dire chi è. È una partita fra noi due perché le ha segnato un gol, le ha segnato un gol. Diretto nella porta del mio cuore ed ho capito che c'è solo lei per me. Ed ho capito che c'è solo lei per me. Bentornati a Liberi Dentro ed Euradio TV. Oggi tocchiamo un argomento molto caldo, sia per la temperatura di questi giorni che per importanza: l'estate e i disordini che ci sono stati nelle carceri. L'estate e il caldo mettono a dura prova l'equilibrio delle persone. Si è portati ad essere più irritabili, insofferenti, e le azioni che a volte ne conseguono sono sovradimensionate. Facciamo e diciamo cose che non avremmo mai voluto fare né dire. Questo però non ci giustifica quando perdiamo la misura e superiamo i limiti, ovviamente. Nei mesi estivi nelle carceri la sofferenza aumenta. I comportamenti tendono a diventare meno controllati fino a sfociare in violenza. E per citare uno dei casi, perché ce ne sono purtroppo svariati, quello di Frosinone, c'è stato l'incendio nel carcere appiccato da un detenuto all'interno della propria cella, morendo poi, ahimè, per gravi ustioni poco dopo. Oppure, diciamo, la situazione di Bolognese, in cui appunto qualche settimana fa c'è stata una sorta di rissa fra i detenuti della Dozza, che è costato un infortunio a due agenti della penitenziaria, e a raccontarlo sui giornali sono stati un po' i sindacati FFCGL e SINAPPE, parlando di vera e propria estate bollente in carcere, a causa in realtà delle condizioni critiche. Infatti dicono che i nuovi disordini avvenuti nella sezione 1A, dove una violenta rissa tra detenuti, alcuni dei quali probabilmente ubriachi, veniva sedata con molta fatica dal personale in servizio, impegnato per diverse ore anche nella successiva gestione dei vari gesti di autolesionismo messi in atto da alcuni detenuti coinvolti, tanto che per uno di questi si è reso necessario l'invio in urgenza in pronto soccorso. La stessa sorte è toccata a due agenti della polizia penitenziaria a causa degli infortuni rimediati durante le varie fasi di disordini, riportando prognosi di 35-10 giorni. Ignazio, io francamente chiederei a te che entri in carcere, che cosa vedi? Qual è la tua percezione di quello che succede? La percezione di quello che noi cogliamo entrando come volontari, quindi come persone che vogliono esprimere una solidarietà e una vicinanza, molte volte soltanto questo, devo dire, un senso di amicizia. Qualche volta si può, noi tocchiamo con mano anche la nostra inutilità, cosa serve andare a sedersi davanti a una persona, a salutarsi, a chiedere come va, ma è solo per, è un senso proprio di vicinanza, di amicizia, di pura amicizia. Nello stesso tempo la nostra posizione rimane sempre quella di grande vicinanza anche a tutti gli operatori del carcere, la polizia penitenziaria, gli educatori. Noi siamo solidali con questo mondo, ci sentiamo appartenenti a questo mondo, e l'impressione che si ha è che il carcere è duro tutto l'anno, ma durante l'estate è terribile, guardate. Perché voi che ci ascoltate da casa, immaginate di stare chiusi in una cella, che una cella poi sono carceri costruiti nel cemento, quindi e non abbiamo i ventilatori, non abbiamo aria condizionata. Qualcuno dice, ma non dovrebbe assolutamente, ecco, adesso dobbiamo mettere anche i ventilatori, ma provate a pensare, stare chiusi 13 ore in una cella con un caldo feroce, così all'esterno, con pochissime attività, quasi nulla durante l'estate, e quindi tante volte la situazione proprio personale di equilibrio psicofisico diventa esplosiva. A questo si può aggiungere quindi tutte le difficoltà del carcere, anche le manchevolezze, mancano le strutture, mancano la possibilità anche di mandare le persone in pene alternative, questo c'è. Bisogna anche dire, perché è stato segnalato dal sindacato, e questo lo sappiamo, l'abuso di alcolici che vengono costruiti artigianalmente. E questo, io vorrei dire una parola in particolare alle persone che ci stanno ascoltando, che sono di fede musulmana. Voi ragazzi lo sapete che per i musulmani l'alcol è stato proibito, ed è proibito per quale motivo? Perché toglie una delle facoltà che è stata data da Dio, che è la facoltà della mente, dell'intelletto. Non si può uccidere la mente, perché si toglie una prerogativa data da Dio. E quindi veramente un appello a quelli che sono troppo abituati, la frutta, la fermentazione, così, fermatevi, perché quando si indulge poi agli alcolici, uno non sa, non è più la persona che veramente è, e non sa che cosa fa più. Proprio così, Ignazio. Tanto per rimanere in clima, diciamo, estivo, propongo una canzone che voglio dedicare a tutte quelle persone che ci hanno aiutato a sostenere il nostro programma donando alla nostra campagna di crowdfunding. In particolare la dedichiamo ad Antonella Gabbi, Francesca Lauria, Alessandra Giovagnoli, Orianna Mezzetti e Angelina Manon, e la canzone si chiama Estate dei Negramaro ed è del 2005. Ascoltiamola. Vorrei potesse non finire mai. In bilico tra tutti i miei vorrei, non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Santi che non pagano, e tanto il tempo passa e passerai, come sai tu, in bilico, e intanto il tempo passa e tu non passi mai. Rieccoci di nuovo insieme. Dopo aver ascoltato i Negramaro, passiamo la parola a Caterina Bombarda, che intervista Franco Milone. A te, Caterina. Rieccovi, bentornati sempre su Liberi Dentro Du Radio TV. Abbiamo sempre il nostro ospite di oggi per tutta questa settimana, è Franco Milone, ospite speciale di queste puntate estive di Liberi Dentro, puntate che vogliono mettere in luce storie di persone che hanno toccato il mondo della detenzione e che, una volta uscite, hanno dato un senso a tutto ciò che hanno vissuto. La tua storia, Franco, come ex detenuto, ci insegna che il carcere, anche se molto spesso viene percepito come fuori dalle città, invisibile ai nostri occhi, è sempre comunque una città. Una città dove ci sono persone che vivono legami, spesso anche affettivi, relazioni, e quindi la domanda è: come si coltivano questi legami? Guarda, ciao intanto. Sicuramente gli affetti sono molto importanti in carcere. E c'è anche un problema. Chi prende una condanna di 3 anni, superiore ai 3 anni, perde gli affetti, fidanzamenti, roba del genere. Se prendi oltre dopo i 5 anni rischi di fare un divorzio se sei sposato. Gli affetti dipendono da come tu l'hai vissuto già in esterno, il rapporto affettivo, se parliamo di... Ma poi c'è i genitori. Lì è difficile, lì è solo l'amore che può aiutare, in reciproco però, perché una mamma, il figlio in carcere non lo vede in carcere, lo vede soltanto come in un ospedale, ha bisogno di me e la mamma ti segue ogni settimana, ti fa il pacco, eccetera. Però tu devi anche, come mettere un gerano, un bocciolo in un vaso e devi metterci l'acqua. L'acqua come la fai? Prendendo carta e penna e cominciando a scrivergli più spesso alla fidanzata, cercare di tenerla sempre presente che tu sei importante. Lei, la persona esterna è importante, vive con te, vive per te e tu vivi per loro. Cioè tutti i sacrifici che fai, ciò che è, perché crei una speranza. La speranza deve mai perdere la speranza alla persona che ami o la persona che ti ama, mai. Se cade quella, finisce. Quindi l'80% comunque degli affetti si perdono in carcere, torno a ripetere, con una condanna di 5 anni. Se poi prendiamo oltre, è quasi un obbligo, perché è difficile mantenere gli affetti, almeno che non ci sono i figli di mezzo. Devo dirti la verità, io l'affetto, grazie a una compagna, ho avuto una moglie che ha cresciuto mio figlio, eccezionale. Oggi è un raggio di sole ancora per me, comunque, che mi ha dato anche delle nipotine, quindi grazie anche alla forza di mia moglie, che poi oggi siamo divorziati perché ho fatto il birichino io, ma ci vogliamo bene e ci frequentiamo ancora. Cioè, siamo lontani ma insieme. E così anche in carcere tu puoi essere, sembra che non ci sei, ma se tu la ami veramente una persona e ti ama, gli affetti tu li hai insieme. Franco, ne abbiamo parlato anche ieri, nella puntata di ieri, della legge Gozzini. La legge del 1986, nata con l'intento di valorizzare l'aspetto rieducativo della carcerazione rispetto a quello punitivo. E che il carcere, poi con la legge Gozzini, da questo punto di vista poi ha cominciato a cambiare, è diventato forse più umano. Ma il carcere, la domanda è vera, è: cambia le persone? Tu ti senti cambiato? Assolutamente sì. Ma per mio volere, non per volere del carcere. Il carcere non cambia, non serve alla persona. Il carcere è soltanto un luogo di pena, dove si chiude il cattivo del momento e basta. Anche se ci sono adesso gli educatori, gli assistenti sociali, sistemi, ma non lo fanno perché deve... è attraverso ricattano, perché se uno non segue le regole che loro impongono, ma come, tu sei condannato? Sei un condannato, e che cosa devi seguire? Che regole? Se non hai seguito le regole, tu sei dentro. Pensi che da dentro cambiano le regole? No, tu solo come persona, il carcere ti può far riflettere, pensare, pensare ai tuoi affetti, alla tua famiglia, a te stesso. Ecco lì che può scattare la molla per il cambiamento. E poi un interesse della tua vita, perché chi entra in carcere non ha un interesse della sua vita, perché essere delinquenti non è così. Si è delinquenti tante volte, anche uno attraversa di strada, dice una parolaccia a uno, si trova in carcere, oppure ruba una mela, insomma, a volte entrano persone deboli, indifese. Meno male che non è più come una volta, ma in sostanza può fare dei danni, fa solo danni il carcere. E se non acquisti tu una forza interiore, una riflessione, non potrai mai cambiare, perché il carcere, anzi, ti fa fare delle conoscenze, possono esserci delle promesse, ci vediamo fuori, facciamo lavori fuori, ciò che magari tu non pensavi di poter fare. E il carcere è un luogo dove crea altra criminalità, altre cose, almeno che non sei tu a non volerlo più fare più. Il carcere può essere semplicemente una barriera che ti può aiutare. È una barriera che in quel momento dici, io in questo momento, già che sono qua, adesso mi metto a leggere, cominciare a interessarmi della parola, dar valore alla parola, ai tuoi pensieri, ecco questo intendo, dare valore anche alle persone che ti sono vicine. Perché noi, quando si va a fare una rapina, si spaccia una droga, si fa un furto, non pensiamo alle persone che ci vogliono veramente bene. Ecco il danno che facciamo. Franco, è tutto giustissimo quello che dici, e ci tengo ancora di più a sottolineare che naturalmente questa è la tua esperienza. Ci sono anche esperienze di persone che il cambiamento l'hanno messo in atto grazie magari all'insegnante del CPA oppure a un certo educatore che entra, un volontario. Quindi ci sono storie diverse. Io invito le persone che hanno fatto un cambiamento anche grazie a persone che entrano e che tutti i giorni frequentano il carcere anche per spirito di solidarietà per chi è dentro, a scriverci. Redazione Liberi Dentro, @gmail.com, e noi, Franco, ci rivediamo domani. Grazie. Va bene. Ciao, grazie a te. E comincia a capire come inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo in paura, sta cercando e ci impara. Yeah. E anche oggi la nostra trasmissione termina qua, ma non cambiate canale perché noi continuiamo con le nostre rubriche. E infatti a seguire potrete vedere ed ascoltare Jailhouse Rock, la trasmissione, la rubrica curata dall'Associazione Antigone, che parla di musica rock e di musicisti che hanno avuto a che fare con la giustizia. Vi ricordiamo sempre che Liberi Dentro va in onda dal lunedì al venerdì su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV, mentre le nostre rubriche sono in onda tutta la settimana. E un caro saluto da Antonella Cortese, Caterina Bombarda, Ignazio De Francesco e dal nostro tecnico Enea Flacco. A domani! Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.